Siamo sicuri che non c'è stato mai un tradimento, caro Razzi? Beh, no, diciamo la verità, una volta solo, una volta. Ma di pensieri, sai, se ne fa tanto. Anzi, perché ti vedi una, dici, minchia, quanto è buona quella. Però, insomma, in realtà non è che possiamo... Siamo uomini, non siamo mica... La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Luciani, sono a passeggio per New York con mia moglie e mia suocera. Loro parlano. A me non me ne frega un cazzo, mi sento la zanzara. Qui in Londra, in questa società di froci vegetariani, dove tutte le trasmissioni radiofoniche sono tutte buoniste, come siamo buoni, come siamo belli, come siamo bravi. Non vedo l'ora questa sera di immergermi fino al collo nella fogna e ascoltare la zanzara. Però, amico mio, va bene immergerti nella zanzara e ascoltare, però nella fogna. No, ma l'espressione froci vegetariani oggettivamente non ci appartiene, eh. Cioè, non capisco però la connessione tra le due cose. Cioè, stai inventando tutto, perché froci e vegetariani sono due cose un po' diverse, eh. Cioè, io conosco, è pieno di vegetariani eterosessuali, no? Come peraltro di gay carnivori, no? Assolutamente. Cioè, non è che la froceria si accompagna al vegetarianesimo. Qualcuno pensa che la froceria sia una cosa tutta, no, precisina. Allora sì, non mangiamo, non c'entra niente. Sono due cose che non c'entrano. Oh, a proposito, c'è molta polemica intorno a un servizio delle Iene, caro Parenzo. Un servizio delle Iene che tu sicuramente non hai visto. No, ieri sera le ho viste tutte le Iene. Sei andato in onda ieri, l'ho visto. Uno con le Olimpiadi dei... No, quello delle Iene gay. Quello del, del sì, gay. Perché mi sembrava abbastanza costruito quello lì, più che altro. Ma sì, certo che era costruito. Cioè no, mi sembravano attori quelli anche che venivano... Ah, quegli che attori che venivano importunati. Che venivano importunati dal gay. Mi sembrava fatto in chroma key tecnicamente. No, adesso non ce ne frega niente della tecnica. Non ce ne fotte nulla. Ma però, mi sembravano tutti attori, ecco. Il sospetto è quello, sì. Il sospetto è quello, però lasciamo perdere. C'è questo tizio che si chiama Sparancino, che è un attore praticamente, sì, un cabarettista, simbatico. Non so che cazzo è, il quale fa finta di essere un gay. Tra l'altro non capisco cosa significa fare finta di essere un gay. Agganciava, l'ho visto proprio ieri sera, agganciava le persone per strada, sì. E le persone normalmente si sarebbero spaventate, ma non perché è gay o supporto. Ma semplicemente perché venivano molestate. Beh, esattamente, sì, questo è il punto. Cioè, esatto, voleva dimostrare la... Guarda, ieri sera ero a letto con la mia compagna. Mi lasci raccontare? Racconta. Dimmi, eri a letto? Guardi un dettaglio, ma niente. Dimmi, eri a letto? No, racconta pure quello che volevi tu. No, eri a letto? Che facevi? Ero a letto. E invece di trombare guardavi le Iene. No, era la notte inoltrata col bambino. Da una parte stavo dandogli il latte. Beh, e ha detto: dico, va bene, zero. Accendiamo le Iene. C'era, sì, il bambino con l'acqua. Sì, vabbè, normale. E ho purtroppo detto, guardiamo, periodo tuo, casa tua, cornuto. Guardiamo le Iene. Sì. Ci guardiamo entrambi, io e Natale, ci volgiamo e guardiamo questa scena agghiacciante di questa roba che non faceva neanche troppo ridere. Sì. Di questo qua che si fingeva gay e aiutava le persone ad attraversare la strada. E queste normalmente si scansavano. Ma sì, non si scansavano, perché se uno mi rompe le palle per strada, anch'io dico, sì, ma che cosa vuoi da me? Puoi essere gay, Cruciani. Sì, lui aggiungeva il fatto, dice, io sono gay, ti posso aiutare ad attraversare la strada? Boh, io veramente... No, però siccome fa discutere, alla fine anche in questo caso le Iene hanno centrato, diciamo, l'obiettivo, perché fa discutere, eccetera, la gente è incazzata, le associazioni che dicono no, avete rappresentato i gay come molestatori, che effettivamente... Ecco, sì, quello capisco, esatto, quello può essere. Sì, vabbè, sti cazzi, No, quello è giusto. Allora, sentiamo dei piccoli pezzetti, perché c'è questo tizio che si avvicina e dice, sì, io sono gay, sono procio, senti. Volevo accompagnarti così. Fai schifo. Solo perché sono gay, allora arrivano qua. Io non so fra, c'è un mattese. Senti quest'altro? Ma mica la disturbo così. Stai disturbando. Se mi appoggio poco poco. No signore, appoggi da tua sorella. Non ce l'ho la sorella purtroppo. Ho tanti amici però. Dai che tra noi gay ci si capisce, su. Vai appoggi... a farti fottere da un gay come te, no? Non mi rompo le palle. Giustamente il signore là, sempre se è vero, cioè se il signore lì dice vai a farti fottere da un gay come te, ma probabilmente è perché uno, quello gli rompe le palle, perché si voleva appoggiare. Se uno, no? È seduto su una panchina e sta leggendo un libro e ti si avvicina, esatto, uno che si addormenta sopra, può essere gay, Cruciani, può essere Marco Donato da Varese, ma io gli dico vai via. Mi è sembrata una candid camera mal riuscita, ecco. La supercazzola di Marchini, l'uomo di Berlusconi a Roma. Senti che dice sui il suo slogan che era liberi dai partiti. Ho visto dei manifesti su internet che sono stati modificati, in cui c'è la faccia di Berlusconi al posto di quella di Marchini e poi liberi dai partiti, punto interrogativo. Mamma. Lei aveva detto di essere libero dai partiti. Libero dai partiti e liberi dai partiti. Liberi vuol dire essere forti e permetterci di potersi fare delle alleanze con altri liberi per liberare Roma da chi l'ha ridotto in un modo assolutamente drammatico e anche da quei movimenti che dietro il populismo farebbero cadere Roma ancora più in basso rispetto a quello che oggi è. Hai capito te? Bah. Boh. Una specie di supercazzola, però se la piglia col populismo, ma intanto era pronta ad incassare anche l'appoggio dei partiti cosiddetti populisti, cioè la Lega, vabbè, eccetera, eccetera. No, perché questo bisogna dire, ragazzi, bisogna dire le cose in faccia. Ma quello che c'entra? No, ma però bisogna dire le cose in faccia. Io non critico nessuno. Non è il suo progetto. No, vabbè, adesso non fare l'amichetto di Marchini, il punto è un altro. Qui ma bisogna essere liberi. Anche perché io voterò bisogna Giacchetti essere... e Zannola. Voterò Zannola, quello a cui hanno imbrattato, a cui vabbè, ad Ostia hanno imbrattato il comitato a Zannola. Dimmi e tu dici va bene. Dimmi te, se in una trasmissione nazionale deve subire la presenza di una persona la quale fa propaganda elettorale per un candidato niente. Ostia. Mi dimmi hai te, chiesto se è un candidato, gli hanno imbrattato. Ma non me ne frega un cazzo. Ah, non te ne frega. No, che nulla. Che la mafia gli ha imbrattato Marchini il comitato. Marchini dice non criminalizzo i partiti, adesso lo dice. Ma lei accetterà il simbolo di Forza Italia oppure non vuole solo delle liste civiche? Non abbiamo discusso di questo, ma io non criminalizzo mai i partiti. Io credo che la politica civica è qualcosa che debba ossigenare la buona politica. A parte la politica civica è una cosa che non ha nessun non significato, cioè zero significa. Quando uno dico la politica civica... No, ma io non ho nessun interesse per Marchini, non lo sto dicendo. Però lui sta dicendoti una cosa che poi puoi contestare o no? Ragazzi, però perché bisogna essere ipocriti? Ma Marchini era ormai fuori dalla gara per il Campidoglio. Berlusconi, per fare un torto dal suo punto di vista, sì, magari avrà ragione, a sì, Salvini, alla Meloni, esatto, decide di appoggiare Marchini. Va Marchini, bene, che era fuori causa, dice, sì, ma rimane... beh, grazie, grazie di questo appoggio. Beh, riceve l'appoggio solamente strumentale, non gliene frega niente di Berlusconi. Va bene, ma certo, lui rimane col suo progetto, quell'altro si ritira e i suoi voti vanno ma là. Ma col suo progetto, ma non è che rimane ricattato da Forza Italia. Ma non dico questo, dico che è una buffonata, è tutta vabbè, una buffonata. Ma la politica però è sempre stata così. Vabbè, uno si ritira, la politica è fatta o no, così. Non è così? Va bene, sì, certo, anche. Questa spiegami è proprio, te che logica. Questa è clamorosa, questa ma è clamorosa. Spiegami tu che logica ha Milano, dove Salvini praticamente è alleato di Passere e di NCD a Milano. Assolutamente sì. E allora dov'è la logica? Non c'è, c'è se non quella logica di battere Beppe Sala. E questo è il punto. Allora, a proposito degli immigrati a Reggio Emilia, a proposito degli immigrati a Reggio Emilia che protestano per il riso scotto e per il poco condimento sul cibo poco vario, ci sono Lega e PD che la pensano praticamente allo stesso modo. Marcato, gli immigrati per la pasta scotta. Marcato, Lega, gli immigrati. Senti, senti questo. A Reggio Emilia alcune decine di profughi sono andate dal questore a protestare perché nella mensa che noi diamo gratuitamente a questi signori la pasta è scotta, d'accordo? Ecco, il dramma non è tanto che questi qua sono andati a protestare, il dramma è che c'è un questore che li ha ricevuti. Ma che paese siamo? Questi andavano cacciati a calci nel sedere. Anche il PD... anche il PD la pensa allo stesso modo. Il consigliere provinciale Fracazzo da Velletri, non so di dove, di Reggio Emilia, del PD, un tale che si chiama Pecorari, scrive: solo l'aver pensato a una rimostranza simile quando da mesi viene loro garantito un dignitoso vitto e alloggio significa sputare sulla nostra generosa ospitalità. L'unica risposta che avrei dato ad una protesta del genere è un sonoro calcio nel culo, altro che delegati e dialogo. Capito? cioè PD e Lega allo stesso modo. Calci nel culo. È la posizione più popolare questa. Calcio nel culo. Poi come al solito se l'è fatta sotto e ha ritrattato in parte questo del PD, perché gli avevano detto: attenti amico mio, non puoi parlare come la Lega. E invece in questo caso ha ragione. Oh, il tuo amico Buonanno da 500 euro a chi segnala i terroristi, mette la taglia stile Uniti. Ma dove? Sì, sì, dice chi segnala e mette il suo numero. Mette il suo numero di telefono, che fra poco daremo, numero di telefono privato di Buonanno. Dunque, se volete insultarlo, se volete attaccarlo, se volete rompere i coglioni, mette il numero di telefono di Buonanno su internet, lo potete vedere, il numero privato di telefonino. E chi gli segnala è un uomo solo, dei possibili proprio, terroristi. Dai, che dice un uomo solo? No, mi dispiace proprio, adesso non lo prenderò più in giro. Questa ultima iniziativa dimostra la solitudine di quest'uomo, dai. Perché? È patetico. Perché? È solo. Ma perché? Perché è uno che dà il... Allora, primo, a Varallo Sesia non ci sono terroristi, anche all'ISIS gli fa cagare quel posto dove c'è Buonanno. Vanno lì, sono lì con al-Baghdadi, al-Baghdadi c'ha la mappa dove bombardare. Varallo Sesia! E quindi non vanno a Varallo Sesia perché detestano Varallo Sesia e Buonanno. Mi fa schifo anche i terroristi Varallo Sesia. Primo. Secondo, dimostra la solitudine di quest'uomo. Cioè, perché un uomo, poveri, e questo invece mi dispiace. Cioè, che dà il numero di cellulare, dici. Perché così. Uno che dà il numero di cellulare così a chiunque è un uomo solo. E mi dispiace. Di questo mi dispiace. Non lo prenderò più in giro perché è un uomo solo. Va aiutato. Sto pensando di mettere una specie di taglia di 500 euro su chi segnala delle cose strane, tra virgolette, di strane persone strane che magari vedono dei movimenti strani, la maglietta dell'ISIS piuttosto che qualche discorso fuori luogo, e se sono poi delle segnalazioni fondate, dare un premio a queste persone che segnalano. Una taglia come nel Far West. Allora, il numero di telefono dato da Buonanno in questo manifesto, taglia di 500 euro. Io ho visto uno stronzo adesso. Terroristi islamici o sostenitori ISIS, sì. Per segnalazione di presunti terroristi islamici o sostenitori. Poi presunti. Scusa, pagati direttamente dal sottoscritto, che cosa? Agli SMS. 335 21 92 49. Ripeto, 335 21 92 49. Adesso lo chiamo in diretta, aspetta. No, che in diretta risponde lui, lo sa che lo chiamiamo noi, no? Che cazzo significa? Da un numero sconosciuto lo chiamo. Aspetta. La grande professionalità degli autisti NCC di Roma. Grande eleganza. La Zanzara. Degli operai sono con te, forza David Parenzo, uccidili tutti questi stronzi. Allora ragazzi, mi segnalano che un sindaco di un paese in provincia di Piacenza, Gragnano Trebbiense, un sindaco donna che si chiama Calza, a un certo punto decide di far lavorare, di far fare qualche lavoretto ai profughi che vengono ospitati in questo posto. È finita in questo modo. Qui ospitiamo i profughi, ho chiesto loro di lavorare, preferiscono non fare nulla, non fare nulla. Abbiamo chiesto se volevano fare un po' di volontariato, tagliare l'erba nei giardini pubblici, pulire le ciclabili oppure i pozzetti che si intasano sempre. Piccole cose per un paio d'ore al giorno, con regolare assicurazione e tutto. Com'è andata? All'inizio hanno detto tutti di sì, adesso sono rimasti in quattro e neanche sempre. Come mai? Mi dicono che alcuni preferiscono distribuire i volantini, prendono 10 euro all'ora. Gli altri semplicemente non vogliono fare nulla, nulla. E non li possiamo obbligare, purtroppo. Cioè, preferiscono non fare un cazzo. Questo è il punto, capito? Preferiscono non fare un cazzo. Vabbè ragazzi, io non so che dire. Andrea da Vicenza, dai Andrea. Allora, ciao ragazzi, buonasera. Innanzitutto io sono consigliere comunale di un comunissimo e abitanti, caro Giuseppe. Noi abbiamo 10 rifugiati che lavorano in una cooperativa del territorio e non ci sono problemi. Questo per risponderti a quello che hai appena riportato, una notizia. Sì, ma sicuramente in altre realtà funziona in modo diverso. Esattamente, non c'è dubbio. Noi abbiamo avuto una rete provinciale, un sindaco di un comune del Vigentino. Cioè, che fanno? Santoro. Lavorano? Che fanno? Collaborano con delle cooperative. Bene, ottimo, ottimo. Esattamente, solo per risponderti. Ottimo. Però intanto bravo. Una richiesta, Giuseppe e David. Pannella, e Pennacchi, invitateli, perché ci vuole un po' di scontro ogni tanto. Alla scontro, Zanzara. Ma più di scontro di quelli che ci abbiamo, amico ragazzi. Mio. Vabbè, ma di che tanto... ma che ascolti tu? Che ascolti? Radio Maria, forse. Forse ti colleghi a un certo punto, switchi su Radio Maria, perché non lo so. Dai, che sto scherzando. Vabbè, altra poi cosa, allora? Altra cosa. Allora, ti faccio questa domanda, faccio anche a Davide. Sì. In Germania o in Spagna è possibile che un radioascoltatore telefoni a una radio pubblica e inizi a cantare un inno nazista o franchista? Bravo. Domanda. Ma non lo so, a me non mi interessa, ma non mi interessa questo. Bravo. Qual è il punto? Non ho capito. In Germania non è possibile perché è un reato grave. In ma non mi interessa, bravo. Ma qual è il punto? Non ho capito. Qual è la tua discussione? Allora, qual è la tua polemica? Allora, tu hai telefonato a un candidato di Pordenone. Sì, a Polegato. Sì, Polegato. Ecco, benissimo, io non lo conoscevo. Allora, gli hai detto anche canta una canzone fascista, certo. Poi alla fine lo ha anche insultato, ma è una cosa decente questa, Giuseppe? Cioè, ma Andrea, ma non so se hai chiaro quello, una per fortuna cosa. Non si deve candidare più, infatti, Andrea, questa qua è una radio molto libera, è una trasmissione molto libera, in cui se io voglio far cantare una canzone fascista a un candidato, gli faccio cantare una canzone fascista. D'altra parte, mi sembra quasi che fai, vabbè, ma quello sono quasi, no, che il hai più ruoli all'interno della scena, cioè ma qual è il punto? Adesso non si ma non ho capito, ma stiamo discutendo sul sottoscritto o su che cosa? Non ho capito. Ma io sto discutendo sul fatto che in una radio di un paese antifascista e democratico si canti una canzone fascista. E vabbè, ma chi se ne frega? Ma che opinione vergognosa, ma quale vergognosa? Ma dai, su, è pieno di gente che canta canzoni fasciste. Opinione, ma giusto? È pieno di gente che canta canzoni fasciste, vogliamo mica mettere in galera le persone perché cantano canzoni. Beh, ognuno canta quello che vuole. Dai. C'è una disposizione transitoria. Nella ma non lo so, ma siete rimasti alla cose vecchie, finite, morte, dai, vecchie, su. Ma ragazzi, ma se uno canta una canzone, lasciatemi cantare la canzone. Vabbè, ma per te bisogna finire in galera, per me no. Scusami. Perché in Germania il nazismo è stato una roba seria. Una cosa che non è particolarmente democratica. Guarda, te la faccio risentire, guarda. Te la faccio risentire. Sì, sì. Te la faccio risentire invece, guarda. Te la faccio risentire. Dimmi una canzone del ventennio, ti prego. Ah, okay, adesso te la canto, dai. Vai, vai. Se tu dall'alto piano guardi il mare, moretta che sei schiava fra gli schiavi. Non ha capito. Vedrai come in un sogno tante navi. E un tricolore sventola per te, faccetta nera della vicina. Aspetta, spera che già l'ora si avvicina. E poi legato, addio a te. Zitto. E poi legato, addio, addio, vai, addio vai, a continua, te. Vai, continua, ti prego, continua, che è bellissimo. No, vai. È la nostra legge schiavitù d'amore. Il nostro motto è libertà e dovere. Vendicheremo noi camicie nere, gli eroi caduti liberando te, faccetta nera della vicina. Aspetta, spera che già l'ora sta vicina. Bravo ragazzi! Andrea, sei schifato? Ma io ho ascoltato come dire tutti gli ascoltatori che ieri hanno sentito questa canzone e sono inorridito come ero inorridito ieri. Ma sei inorridisci per queste cose, amico mio, guarda. Fa schifo. Sei inorridisci per queste cose, guarda. Giuseppe, tu hai studiato la storia, eh? Ma sì, ma certo che ho studiato la storia, ma certo che era una dittatura, ma che vuol dire? Ma è roba passata, morte, è un pezzo di teatro, è un tizio, un po' Mattarello che vuole fare il fascistone, ma chi se ne frega? Cioè, chi se ne frega, nel senso che uno se non ridisce per queste cose, beh, e comunque, addio, non si candiderà più. Chi ragazzi. Se ne frega era un, come dire, era me una ne frego, frase fascista. Bravo. Esattamente, bravo Davide. Me ne frego, mi date pure del fascista, così è finito. Me ne frego, dicevano loro. Ho detto che ho un linguaggio che ricorda vabbè. Quello del regime. Ciao, Piero, provincia di Grosseto, anzi Michele, provincia di Modena. Vai Michele. Michele. Innanzitutto santi subito voi due. Lo dico proprio. No, santi no. Diciamo che un monumento, un piccolo monumento andrebbe bene di bronzo, anzi una scultura bronzea tipo quelle che fa la consigliera Grillina lì a Ragusa, che fa le statue di Mussolini e si dice fascista, ne parleremo dopo. Michele, dimmi. Vai. No, volevo dirti, vai, non inorridisco per la canzone, l'adoro, se vogliamo. Beh, l'adori perché sei malato, se l'adori. No, hai ragione. Critico i vegani, ma non lo faccio in modo polemico. Vabbè, Michele, andiamo avanti, poi? Ok, no, ti voglio dire una cosa, perché rispetto tantissimo le vostre opinioni, mi piacciono da matti, fate una funzione sociale fantastica, basta dai. Complimenti perché sennò vi rompete i coglioni. Dai, su, amico mio, esatto. Dai! Rom, allora, Parenzo, rispetto alla tua opinione, io la vedo in modo diverso per una statistica solo che sta dietro, c'è cioè un italiano disonesto forse ogni 10, mi sembra che si inverta. Vabbè, Michele, poi? Allora, un comune vicino a casa mia, per disfarsi di un po' di rom, ha comprato una casa nel nostro comune. Conseguenza statistica: calo dei furti nel comune di provenienza, aumento nei nostri, 3 tentativi su casa mia. Terremoto, abito nell'epicentro, per sfiga, l'unica cosa positiva, gli ha reso la casa inagibile, grazie a Dio. Cioè, non ho capito, tu stai dicendo grazie al terremoto che ha praticamente distrutto, gli ha fatto crollare la casa a questi rom? No, no, non erano in casa, perché ovviamente... No, vabbè, okay, però ha distrutto le case dei rom, che il comune dà dei rom, e tu sei contento di questo? Io sono contento perché sono rimasti furti, tu. Capito? Cosa... questo è questo punto. E casualmente cosa sono da fare aumentati è mettere nel una... comune nuovo che li ho. Una... Che le ho mettere una pietra tombale su queste parole, perché solo augurarsi... un terremoto, una cosa, ma io non lo so. Fermi tutti, ma manda tutti a quel paese, chiudi tutto, non è possibile. Beh ragazzi, io quando ascolto la zanzara mi sento libero, libero, mi sento una persona libera. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. La Zanzara. Luciani, ho appena beccato su Facebook la VEG Mask, il filtro da mettere davanti alla bocca e al naso per evitare di inalare i nostri piccoli amici insetti, tutto in tessuto cruelty free. Controlla Facebook, scrivi su una ricerca VEG Mask. Allora, non so perché è un periodo in cui qualcuno tira fuori tutte le cose che riguardano il fascismo e cazzate di questo tipo. C'è una dei 5 Stelle a Ragusa che si chiama Sigona, una consigliera grillina, cioè consigliere comunale dei 5 Stelle sto parlando. Non sto parlando di un candidato sindaco che ama il Duce, che fa al ristorante i discorsi del Duce, che imita Mussolini, eccetera, eccetera. Stiamo parlando di un consigliere comunale del movimento di Beppe Grillo, con tanto di marchio, con tanto di timbro, no? La quale consigliera scrive, riporta una frase: noi eravamo fascisti, poi siamo rimasti fascisti e saremo sempre fascisti. Una specie di inno al fascismo. Poi addirittura mette una foto con tanto di busti del Duce, di post che inneggiano agli anni d'oro delle camicie nero. Sentiamo che dice questa signora. Di tutti i miei lavori in ogni caso io vado orgogliosa, in particolare di Benito Mussolini, perché io penso e credo che molte cose di cui noi oggi godiamo, a prescindere dall'ideologia politica, penso che molte cose che abbia fatto lui ce li stiamo godendo ancora tuttora. Sono un artigiano e ho realizzato anche busti di Benito Mussolini in pietra lavica con determinati stampi, e quindi ovviamente avendo una pagina personale ed essendo la mia attività come pubblico altri lavori, che possa essere San Giorgio, che possa essere una statua della Madonna o che possa essere un carretto siciliano, ho pubblicato anche tra le mie opere anche i busti di Mussolini, ma come anche quello ho pubblicato anche quelli di Hitler che me l'hanno chiesto. Lei non rinnega le posizioni di fascista, mi sembra di capire. No. Ma non pensa ci sia una contraddizione con il pensiero del Movimento 5 Stelle? Penso proprio di no, perché all'interno del Movimento 5 Stelle ci siamo persone di destra come ci sono persone di sinistra. Non sono molto d'accordo, i tuoi amici di partito, non sono molto d'accordo. meglio però, le scie chimiche di questa. Comunque, però voglio farvi ascoltare questa roba qui. Si tratta di Barbara Alberti, la signora Barbara Alberti, come sapete, grande polemista televisiva e anche altre cose, nonché madre di un mio amico che si chiama Malcolm Pagani, ma questo non c'entra nulla. In questo caso, no, però volevo ricordarlo. Non facciamo sconti a nessuno. Signora Barbara Alberti parla dei facchini delle ferrovie, cioè si lamenta in sostanza che le ferrovie dello Stato, che lei chiama ancora ferrovie, non abbiano più i facchini. Questa è una questione vera, però. Ma quale questione vera, ragazzi? È verissimo. Lavoro nobilissimo e utile, ma ho soprattutto. Capito, ma dai, su. Era fondamentale. Io me lo ricordo ancora alle stazioni dei treni che avevano delle loro carrozze sopra le quali caricavano. Ma ci sono ancora, peraltro. Non è che non ci sono. E solo in alcune stazioni. Firenze ci sono. Roma ci sono. Senti, Alberti. In poche città. C'ha ragione, è vero. Senti. Il contributo delle ferrovie negli ultimi 30 anni è stato quello di aumentare i prezzi e diminuire i servizi. Quelli che viaggiano, che hanno la mia età, hanno tutti la schiena a pezzi, perché 30 anni fa ci hanno tolto i facchini. Per averne uno, ma devi fare telefonate, cioè una cosa burocratica, mica da poco. I facchini, sì, quando arriva il treno. I prezzi, ha ragione, perfettamente. Hanno aumentato i prezzi. Ma quello, vabbè, d'accordo, ma che c'entra? E diminuito i servizi. Ha perfettamente ragione. Ma non dire cazzate, dai, adesso il problema ma come no? Tu sempre in treno. Autisti, chauffeur. Ma ce l'hai tu gli autisti? Io viaggio con bambini, borse. Ogni volta devo tirarmi via, cioè, ti lamenti perché non ci sono i facchini come un tempo. Dai, ragazzi, non diciamo cazzate, dai, non sarà mica un problema. Servizio che uno paga. A parte che non è vero che ci sono, lei dice che solo in alcune stazioni ci sono. Ha ragione. Dai, solo in alcune stazioni. No, ma senti che dice dopo. Ma ha ragione, adesso non è una polemica. Senti. Alla stazione di Milano e in altre stazioni, una voce appena arrivi con quattro bagagli che non sai come cavolo fare, c'è una voce che ti dice: vi avvertiamo che ci sono dei clandestini che vogliono portarvi le valigie. Ma dove sono? Ma magari, e devo dire, io li uso, mi denuncino, perché ecco, sono complice di questi clandestini, perché sono gli unici che fanno questo lavoro e molto professionalmente. Puoi addirittura telefonare. Se sono clandestini, come fai a telefonare? Bravissima. Scusa, no, clandestini, lavori socialmente. Bravissima, hai perfettamente ragione. Ragazzi, non diciamo cazzate. È come la cooperativa dei Rom, questa qua. Quelli Rom che volevano fare la cooperativa. Lucidissima, bravissima, ha detto una cosa vera. Ma scusa, vera. Ragazzi, usa i clandestini. Lei dice, sostiene che usa i clandestini, sì, per farsi portare le valigie. Questi che sono, a parte i che binari, non è vero, che sono clandestini. Binari, che, non lo so, sono clandestini. Secondo me non sono clandestini, saranno di una cooperativa. Quindi. Fermi tutti. Fermi tutti. Un uomo, un rom italiano di 54 anni, residente a Vigevano, Pavia, la sera di sabato 23 aprile si è introdotto nel pollaio di un filippino di 57 anni. Sì, ed è stato colpito da una freccia, ho letto perfettamente. Residente anche lui a Vigevano, per portargli via una gallina. E fin qui, vabbè, cose normali. Il filippino ha fatto una trappola rudimentale. Sì, la storia la conosco benissimo. Trappola rudimentale ha fatto. Una balestra. E per questo è stato incriminato. Gli ha perforato l'intestino. Eh beh, certo. Capito? Cioè, il filippino ha creato una balestra. Questo ha toccato un filo, ha toccato non so che cosa, un meccanismo che si è attivato. Vecchie trappole rudimentali, certo. E questa freccia gli ha perforato l'intestino. Ecco, ora in fin di vita, questo qui, questo denunciato, il filippino. E per te è giusto che sia stato denunciato? Una cosa, non è giusto o sbagliato, il diritto prevede questo, mi sembra giusto, ovviamente. Cioè, ti sembra giusto? C'è un tizio perché gli rompevano i coglioni nel suo pollaio. Ma fai una trappola rudimentale? Ma se questo qua ha subito. Se per caso quella freccia fosse partita e avesse rotto il vetro di una signora padana lì vicino, magari. Ma se a voi va bene che vengano a rubare, va benissimo. Nello stato di diritto funziona che non ti fai delle cerbottane in casa. Per cui se uno apre la porta ti si scarica addosso una valanga di letame se ti piace così. Nello stato ma va benissimo. Di diritto non funziona questa. Il signore filippino. Sì, nel Medioevo funziona così. I ponti levatoi, dice queste cose. I ponti levatoi non solo, ma anche l'olio, ad esempio. In Val Brembana, a Bergamo, a Radio Padania, mi risulta che ad esempio hanno non le telecamere di sicurezza, cose normali che ci sono in democrazia, ma hanno delle pentole di rame. Dove dentro bolle dell'olio, che dell'olio lo buttano sui ladri. Che... quando qualcuno. No, i ladri, quando i comunisti, qualcuno viene lì sotto, loro girano come nel Medioevo queste pentole caldissime di olio. Ecco, nel Medioevo e in Padania funziona così. Nelle altre parti del mondo evolute, no. Alessandro da Torino, come comunque il filippino ha fatto benissimo per me, eh? Cioè il filippino evidentemente aveva una serie di rotture di coglioni, cioè venivano a rubargli continuamente le galline, non so che, in questo piccolo appezzamento, e ha pensato bene, nessuno mi può difendere, mi posso difendere da solo, ha costruito questa cosa rudimentale, questa cerbottana che si aziona, e il povero Rom che è andato a rubare si è preso una cerbottana, si è preso una cerbottana nel petto. E amico mio, vai a rubare e te prendi una cerbottana. E tu dici sei in medioevo, ma infatti stiamo parlando di campi, stiamo parlando di agricoltura, stiamo parlando di galline, stiamo parlando di un ambiente in cui è previsto che se tu vai a rubare ti prendi un colpo di cerbottana. Non mi pare che però la Coldiretti, la Confagricoltura si attrezzi di questo. Ma a me che cazzo me ne frega la Coldiretti, non mi pare che gli agricoltori italiani si difendano così. E questo si è attrezzato così, ha fatto bene Alessandro da Torino, dai, Alessandro da Torino, autodifesa sempre e comunque. Dai un'immagine delle campagne che è assurda proprio. Vai, chi c'è? Alessandro, vai, dimmi. Alessandro, forza, andiamo. Luciani. Sì, dimmi. Io volevo dire, io sono d'accordo con te sulla linea dei Rom. Sì, sulla linea. Sono d'accordissimo con te. Allora io sono disoccupato. Sì. E sono da 8 anni senza luce, senza gas, sì, senza niente. Sì. E mi girano i coglioni. Sì. Perché scusa il termine. Come fai a essere senza luce, senza gas e sta col telefonino? Scusa Alessandro, spiegami. Ma perché è mancata mia madre io non potevo pagare perché avevo perso il lavoro nel 2007 e dal 2007 che sono senza luce, senza gas, senza niente. Scusa, come fai a essere, ripeto, per carità, senza luce, senza gas, senza niente, però stai col telefonino acceso, no? Uno teoricamente non sa manco come accendere. Lo vado a caricare. Vabbè, ma è una domanda, vai a caricare dove? Alla Caritas? Tra amici. Tra amici, cioè tu stai a casa senza gas, senza luce, senza niente, come fai a campare? Ma aiutano. Ti aiutano. Dove abiti? Ma il comune l'ha chiesto aiuto al comune. Ma quale comune? Dove abiti? Niente, Alessandro, dove abiti? Io abito a Bolpiano. A Bolpiano. Vabbè, ma perché ci hai chiamato per raccontarci? Chiami il comune, l'assessore ai servizi sociali. No, vabbè. Dice che loro no, non possono fare niente. Vabbè, allora perché ti girano i coglioni oltre che per la tua situazione, eccetera? No, però voglio dire, danno ancora soldi, sigarette, e questi si vanno a lamentare per il riso scotto. Tu dici dai, vanno a lamentarsi per il riso scotto eccetera eccetera, stanno lì, vogliono, gli offrono pure un lavoro, comunque un qualcosa da fare, e non lo fanno, a te ti gira il culo perché a loro danno i soldi, a te nulla, giusto? Sì. E poi? Non ho niente. Non hai niente? Che possiamo fare noi che non hai niente? No, ma io non voglio, non sto chiedendo. Possiamo fare qualcosa, che ne so, possiamo dare. Possiamo chiamare il suo comune, a ridaglie questo comune, a ridaglie con l'assessorato dei servizi sociali. La politica fa questo, è certo. Come Alessandro, ma hai fatto richiesta per avere un assegno? Che cazzo ne so? Io sono andato a fare domande dappertutto. Niente. Ho girato tutte le agenzie, ho girato il comune. Ma come, dove dormi? Una casa ce l'ho, grazie a Dio. Ma come fai senza gas e senza luce? Come fai a pulirla sta casa? La pulisco. Senza gas e senza luce? Sì. E l'acqua? È fredda. L'acqua fredda, come fai a lavarti? Si lava l'acqua fredda. La riscaldi, come la riscaldi? Col gas. Ho una bombola, la scaldo. Che prendi, prendi il gas da un'altra parte allora? No, no. Ah, il cucinino. Ho preso una bombola. Ah, un cucinino. Ho cambiato gli augelli. E dunque? La scaldo. La scaldi. Ma hai una voce un po' strana, un po' impastata. Che ne so, hai una voce un po' come se avessi bevuto. Che ne so, magari ti sei dato all'alcol. Non lo so, la situazione. No. No, per carità. Poveretto. Ma no, ma non mica ho detto che sei una cosa strana, eccetera. Vabbè, comunque, Alessandro, tu hai sentito la storia dei Rom con riso? Io le do questo consiglio. Vada in comune e parli con l'assessore alle politiche sociali del comune. Ma questo, tu vivi in un altro mondo. Fermi tu. No, io con... dall'assessore ai servizi sociali, dice Parenzo. Funziona così. Pronto. Andato, ma mi ha detto. T'ha detto che? Noi non siamo qua per pagare la luce a nessuno. Sì. Noi non siamo qua per pagare il gas a nessuno. Sì. Io ho 8 anni che vado avanti così. Ma che lavoro fai, Alessandro? Aspetta un attimo. Non lavora. Purtroppo per te sarà bizzarro, ma c'è una piccola interruzione. Ho 26 anni e non ho mai avuto una dipendenza. Da qualche anno però non posso fare a meno della zanzara. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Alessandro, aspetta un attimo, aspetta lì Alessandro. L'attesa della risposta. Allora Alessandro, io non ho capito, tu che lavoro facevi? Io ho fatto il pasticcere per 12 anni. Poi ho fatto il carrellista per 8 anni. E allora? E poi niente, è scaduto il contratto. Ho capito, perché ho capito, tu dici io ho perso il lavoro, ma perché te la prendi con gli immigrati, perché te la prendi con i rom, eccetera eccetera, spiegami. No, io sono d'accordo con quello che dice lei, cioè che comunque, cioè non si devono lamentare, per buoni vanno tenuti e quelli non buoni, va bene, ho capito, ma ti incazzi perché gli danno da mangiare alla mensa, che e loro protestano. Mi incazzo perché dico riso scotto io non mangio. Ma adesso non mangi, qualcosa mangerai, se no crepi. Cosa mangi? Viale, certo, mi scrive inverosimile. C'è qualche buon amico che mio amico Silvio Viale mi scrive, è un medico famoso di Torino. Mi scrive, abbastanza inverosimile che ad Alpignano, provincia di Torino, sta senza assistenza. Vabbè ragazzi, lo saprà lui, no, se è senza assistenza o no. Evidentemente non c'ha più un cazzo. Magari avrà la casa di proprietà, oppure ci saranno altri parametri che non di chi è sta casa? No, è casa popolare. La casa popolare. Ma tu c'hai una voce un po' strana, Alessandro, non so come mai, c'hai una voce un po' alterata. Ma perché? E che ne so, mi sembra una voce alterata. Adesso sei fissato questa lava, non è la voce che ha. No, la voce sono che deve un po' emozionato. Ah, ho capito, vivi in una casa popolare e i soldi per questa casa popolare chi te li dà? Nessuno. Ci sarà un affitto oppure la occupi? Non la paghi? Non la paghi? No, io no. Ma scusa, io non ho capito, no. Ma perché non vai a fare un lavoro qualsiasi? Ma io sto cercando in tutti i modi, però ho 45 anni e non sono più in grado di fare certi lavori. E perché? Che c'hai a 45? Perché comunque ho diverse patologie. Che c'hai? Pure queste, che c'hai? E c'ho i reni che non funzionano. I reni che non funzionano? C'ho l'ipertensione. L'ipertensione? C'ho il cuore che il cuore? Purtroppo funziona male. Il cuore che funziona male. Allora, i reni che non funzionano, l'ipertensione, il cuore che funziona male, amico mio, non c'hai una lira, anche io che te devo fare? Non lo so, cioè, ricoverati, no? In ospedale, almeno così magni. Ma no. No, non ti vuoi manco ricoverare. No, c'è un appello al comune. C'è morta mia madre in ospedale. In ospedale non ci vuoi andare. Com'è il suo comune? Come si chiama? Come si chiama il comune? Adesso ci attiveremo. Come si chiama sto comune? Volpiano. Volpiano. Volpiano. Appello al comune di Volpiano. Oh, amici del comune di Volpiano, qui c'è un signore che si chiama Alessandro. Vediamo se ci chiama. Come si chiama quell'eurodeputato, quel pagliaccio della Lega che chiami sempre? Come si chiama? Ma quello che c'entra quello? Il buon nome anno. No, ma io vedo anche il sindaco chi è. Buon anno. No, ma lasci da buon anno di Varallo Sesia lì del Piemonte. Ma che c'entra? Un altro posto. Anziché dare la taglia dei 500 euro per dei minchioni inesistenti in questo momento, aiutasse questo signore che ha bisogno. Ecco, mettiamo in contatto. Guarda, le diamo il numero di cellulare. Stia lì che le diamo il numero di cellulare. Guardi, chiami questo qua. Adesso aspetta. Dagli quel numero 033. No, ma fermo. Non lo sai nemmeno il numero. Ma non lo sai il 335. Il numero di Buonanno. Poi no? Qual è? Quello che hai dato prima. E qual io è? Ne ho qua uno, non so se è lo stesso. Sì, sarà lo due stesso. Due è lo stesso? Non lo so, dillo. Ma no, posso dire in diretta, magari non è questo. Ma l'abbiamo già che detto prima. Vabbè, aspetta che lo recupero, aspetta. Ah, Antonio da Bari intanto, Antonio vai. Ma dove cazzo vivi? Ma non ti rendi conto che la gente sta in quelle condizioni? Alza bene la voce, se no non sento. Alzala bene, vai. Ti sto dicendo, dove cazzo vivi? Il numero di Bonanno, ragazzi, chiamate. Ha fatto un appello per 500 euro per segnalazione di presunti terroristi islamici o sostenitori ISIS, pagati direttamente dal sottoscritto, cioè gli sms o non so, ecco, che cosa. Diciamo a questo ascoltatore che ha visto qualcuno lì 335, girare, 335 21 92 49, chiamate il numero di Bonanno anche per insultarlo. Vabbè Antonio, che vuoi? Ti sto dicendo, dove cazzo vivi, che non ti rendi conto che la gente sta in quelle condizioni? Ma la gente sta... ci sono persone in quelle condizioni, certo, lo so benissimo che ci sono persone in quelle condizioni. E allora che parli a fare così? Ti devi trovare in quella situazione, tu non capisci perché in quella situazione... No, non mi sono mai trovato, è vero, sì, è vero, non mi sono mai trovato. Ma che vuol dire non parlare? Quello mi chiama insultare. Che c'è ancora Alessandro? C'è ancora Alessandro? Alessandro, ti ho insultato. Fermo, fermo. Lo troveranno morto in casa. Antonio, calmati un attimo. Alessandro, ti ho insultato? No. Ecco, appunto, Antonio, stai zitto e vai avanti, avanti. Ma quel poveraccio che cosa ti può dire, scusami? Vabbè, dov'è che l'aveva insultato, scusami? L'ha insultato dicendo, che vuoi da me? No, tu, beh, che vuoi da me? Mi chiami e io ti chiedo, che vuoi da me? Ma che vuoi per da esempio, anche a te, anche a te, aiuto, Antonio. Infatti, noi abbiamo fatto un appello al comune, abbiamo dato il numero di Bonanno. Ma che... il comune non farà mai niente. Non è detto. Ma che vuoi che gli do i soldi io? Vuoi che gli do i soldi io? Ma faresti un gran gesto, tu e quell'altro coglione a fianco a te. Sì, vabbè, adesso diamo i soldi. Adesso poi diamo i soldi a tutti noi, dai, no, su. No, ma non è fare la ma carità. Non li vuole nemmeno i soldi, quello, da noi, no. Se tu gli dai quello, se glieli potessi dare io, glieli darei anche io, vabbè, dai. Alessandro, che vuoi, i soldi da noi? Alessandro? Parolacce non si arriva a niente. Come? Con le parolacce non si arriva a niente. No, che c'entra le parolacce? Vuoi i soldi da noi? Non stiamo parlando di parolacce, stiamo parlando... Ma non posso chiedere soldi a voi. Non vuole i soldi da noi. Antonio, vai avanti, avanti. Che stai... io allora. Vabbè, dite a te, che volevi dire? Sento io. Che volevi dire oltre a questo? Volevo dire, io, poi scendendo questo caso, che anche un mio amico oggi è andato al comune, ha due figli, solo perché è proprietario di casa, che comunque sta pagando il mutuo, ed è rimasto senza lavoro. Al comune gli hanno detto, no, tu sei proprietario di casa, non ti possiamo dare assistenza. Vabbè, questi sono altri problemi. Antonio, di cosa ci volevi parlare, oltre a questi casi umani? Di cosa ci volevi parlare? Che se ci fosse il partito fascista... Ecco la cazzata. E noi in Italia, ricordi, ecco la che la maggioranza, siamo fascisti. Sì, ma tuo nonno è fascista, perché? Forse, la maggioranza. Com'è? La maggioranza di tuo nonno è fascista. Mio nonno è morto, quindi non sono cazzi tuoi. Dai, ti Antonio, su, non dire stronzate, dai, su. Tu vivi in una situazione che non conosci la realtà. Antonio. La realtà della gente è quello. Vabbè, la realtà è quella, a parte che non è vero che la realtà. Italiani, e poi agli stranieri, questi negri che stanno venendo. Negri che stanno venendo. Vedi che poi alla fine parte da un discorso normale, dare solidarietà ad Alessandro che cerca lavoro, eccetera, eccetera. È italiano, io sto dando solidarietà a un italiano. Sì, io i soldi a un italiano, io aiuterei un italiano. E ci vuole il partito fascista. Ma tutti questi negri che ti vengono a mettere le mani in tasca, ti fanno schifo. No, veramente le mani in tasca fino adesso ce l'hanno messe magari i politici o italianissimi. Io ti parlo, o ti i ladri o altre persone. Cruciani, ti sto dicendo che tu non vivi la realtà. Vabbè, quello l'hai già detto, Antonio, l'hai già detto. Poi hai detto una cazzata, ci vuole per strada. Sì, la gente di colore per strada. Le mani addosso. No, a me non è mai successo. Ma perché ti sto dicendo che vivi in una situazione che non ti tocca? Ma perché invece vieni nei piccoli paesi al sud. Vieni nei piccoli paesi al sud. E che succede? E ti rendi conto, avanti a ogni supermercato, a ogni negozietto, c'è una persona di colore che se non gli dai i soldi ti tocca, gli devi dare per forza. Amico mio, non mi sembra che ci sia questa situazione di assedio, di assedio. Qua. Voi state là, dove state? Vieni voi, qua, Milano? Vieni qua, certo che siamo io a Milano, e lui allora, a Roma. Dove cazzo vivi? Vieni qua al sud, vieni a fare una puntata qui a Bari, ti rendi conto? Dai, Antonio, su, ma non c'è. Che non può mangiare. Sì, ma quello è un altro discorso, tu stai dicendo un'altra cosa. Come persona che ha chiamato, Antonio, Antonio, al sud è moltiplicato per 10. Antonio, a parte che tu hai detto che ci vorrebbe il partito fascista, dunque sei un coglione già. Già sei fuori, no, già. Un coglione sei tu che non capisci. E la seconda cosa, parli di orde, parli... Tranquillamente la canzone, non mi devo vergognare della canzone fascista. Beh, chi ha detto che bisogna vergognarsi? Capito? Chi ha detto tu? Che bisogna vergognarsi? No, io no, detto, io non ho detto quello. Io sì, però non... Parenzo l'ha detto, e tu pensi che ci siano orde di negri, come tu li hai chiamati, che mettono le mani in tasca alle persone? Tu sei veramente fuori di cervello. Ma ci saranno delle situazioni sicuramente, ma non è che ci sono orde di negri che vieni mettono qua, le mani in tasca. Vieni a vedere cosa sta qua. Antonio, tu ho detto dove vivi. Io ti sto dicendo, se vieni Antonio, qua, che lavoro fai tu? Che lavoro fai? Io ho un piccolo negozio, sono un piccolo imprenditore e mi rendo conto. C'è un negozio, qua, piccolo imprenditore, c'è un negozio, c'è un piccolo imprenditore. Che cos'è? Ho capito, è il commerciante. Ho capito, ma che piccolo imprenditore? Va bene, poverino, piccolo imprenditore. Vabbè, lasciamogli piccolo dire piccolo imprenditore. Poverino, sarai tu, coglione. È associato a Confindustria lei anche? È associato vabbè, a Confindustria? Adesso? No, è piccolo imprenditore per forza. Confindustria con i commercianti, coglione, ma dove cazzo vivi? Perché lei ha detto di essere un piccolo imprenditore, quindi pensavo. È piccolo imprenditore, come si chiama un commerciante? No, è un si chiama Antonio, si chiama imprenditore, Antonio da Bari. Allora, piccolo imprenditore sarebbe PMI, cioè le piccole e medie aziende. Dai, non dire stronzate, pure te con queste sigle, dai. Antonio, non ho capito bene. C'ha una bottega, dai, va benissimo. Fa il commerciante, c'ha una bottega, ma non è imprenditore. Sei un bottegaio, va benissimo, però, io le adoro. Commerciante, piccolo imprenditore. C'è un bottegaio, va bene, va benissimo, un bottegaio. Piccolo imprenditore. Ma perché ti hanno fatto i bottegai? Sei il marchione dei bottegai, d'accordo, benissimo. Ma scusa, stai insultando i bottegai. Ma che male ti hanno fatto i bottegai? Perché devi insultare i bottegai? Che hai detto bottegaio, sarà tuo nonno, scusa. Un piccolo imprenditore. C'hai una bottega, c'hai un piccolo negozio. Si dice piccolo imprenditore. Ma quale piccolo imprenditore? Sei un negozio, sei un negoziante. Punto. Ma no, dove piccolo cazzo vivete? Guarda, ma come dove cazzo? Vabbè, comunque dai, non importa. Non importa, dai, non importa. È un imprenditore. Guarda, benissimo, piccolo imprenditore. Veramente che vorrei che i negri venissero in casa vostra. Ma che c'entrano i negri adesso? Costi negri. Che non cosa è imprende questo qui? Perché siamo pieni qua. Siamo qua pieni. In Roma non ci ma sono. Tu sei pieno di paglia in testa. Sei pieno di paglia in testa. E che cosa produce la sua piccola azienda? E che cosa vende la sua bottega? Sentiamo. Scusi professore, cosa vende la sua azienda? Cosa non vende? Sono cazzi tuoi. Il negozio è di che cosa? Il negozio è certo, di che se cosa? Tratti i clienti come tratti noi, amico mio. Appunto, ti credo che va male. Non fai un euro. La è solo femminile, quindi. Ma perché? Che bottega è? Che cosa vende? Fiori? Che bottega è? Cosa vende? Ma che c'hai i cosi? Fiori per il cimitero, quindi funziona. I rossetti, che cos'è? Amate, vendi rossetti. Ma perché? Anche quello insultato. Anche insultato chi vende rossetti. Ma dimmi se è normale. Vende intimo, vendi intimo. Cosa vendi intimo? E che intimo vendi? Oh, mutande, vende mutande. Oh, è un piccolo imprenditore delle mutande. Imprenditore che vende mutande, perfetto. Tu le usi le mutande, vai nudo. No, io non le porto come si fa a casa tua, non le uso, come si usa a casa tua. Sì, tu sei pronto all'uso già. Che a casa tua non si usano le mutande, sporcaccioni che non si. Ma io non ho capito, Antonio. Allora, tu alla fine siamo arrivati alla conclusione, caro Parenzo, che c'ha una bottega di mutande. Vabbè. Questa è la sostanza. No, no, una bottega, è un imprenditore di piccole mutande. È un piccolo imprenditore di mutande. Scusa, che vendi? Pure reggiseni? Pure reggiseni vendi? Perché è l'intimo, scusa. Che vabbè, una merceria, dai, le classiche mercerie, quelle là che vendono pure i calzini, no, queste robe qua. È un piccolo imprenditore. Antonio, che vendi? Un imprenditore, bravo, coglione. Vabbè, io non così si chiamano. Antonio, ti saluto, vai. Te saluto. Te saluto. Un piccolo imprenditore. Sì, te saluto, esatto, te saluto. Ciao. Te saluto. Ciao, ciao. Tutti gli idioti devono chiamare. Proviamo a chiamare Sgarbi, eh? Proviamo a chiamare Sgarbone, vai! Eccolo! Vittorio, come andiamo? Come stai? Benissimo, stiamo girando in auguro. Aspetta, che non sento un cazzo, aspetta, che c'hai, l'auricolare? No, io niente, non lo so, figura che io uso come preservativo per l'auricolare. Come preservare le cose? Solo per maniaci, sì, certo. Normale. Se uno ha un dubbio, non la scopi. No, cioè, non è che devi sacrificare i preservativi, patacche. Sì. Non venite voi. Ma dove sei? No. Siamo a Padova, abbiamo inaugurato la mostra di Donatello e San Lorenzo. Padova, meraviglioso, bene, ottimo. Stupendo. Sì, no, venite con noi, scusa che saluto. No, la Basilica del Santo è meravigliosa perché unisce gotico, cioè, romanico e lo stile bizantino. Vittorio, ecco, dimmi, caro. No, spiegavo allora a questo salame di Cruciani che la Basilica del Santo è meravigliosa perché unisce tre stili. Unisci il romanico, poi, il gotico, il bizantino. Il rinascimentale, c'è cioè Donatello dentro. Certo. Donatello, c'è bellissimo. Il primo intervento di Giotto a Padova, prima della esatto. Ma io non so un cazzo, che cazzo non me ne frega di storia. Senti una cosa, ma riprendiamo la storia per un attimo dell'auricolare, che era interessante. Cioè, usare l'auricolare. No, se tu hai paura di scopare una malata, sì, non la scopri. Quindi come fai a saperlo? Come fai a saperlo? Guardi, le parli e chiedi chi gliel'ha messo. Il problema è questo qua: cambiare una donna sì. ogni giorno, perché le probabilità che tu lo prenda sono una su un milione. Quindi, se uno insiste con una che non è proprio buona per 20 volte, può darsi, sì. ma una su un milione non può capitare. Le percentuali sono tali da non consentire. Ho capito, ma però, se tu prima se... ancora di quest'una su un milione, tu la guardi bene, sì. la studi. Sì. Dice tu non hai scopato, lei ti guarda e tu valuti e ti astieni, ma non è obbligatorio. Ma non è preservativo è preservarsi quando ormai sei dentro, che è troppo. Ma magari si parla di altre malattie, non di AIDS, di altre cose. No, se ti prende un po' di candida, quella ti passa subito, ti brucia un po' l'uccello, è finita lì, non è grave. Sì. No, beh, diciamo che però diffidare e sì. preservare sì. meglio non fare, cioè, meglio, che non meglio non fare, sì, e meglio. Se tu devi dubitare di quella che sta con te, non starci. Allora, no, però torniamo alla foto: è una presa per il culo, giusto? La foto è un montaggio fatto dal mio assistente Nino Ippolito, che ha voluto vedere come reagivano delle persone che vedono nulla immondi al mare, ma se vedono uno sul divano si scandalizzano. Quindi, voglio dire, se al mare uno è così. Ma fotomontaggio, non ho capito, la parte finale che cos'è? Un'opera d'arte? Lui l'ha fatto Ippolito. Ah, comunque, il mio assistente. È tutto finto, una presa per il culo gigantesca. Per il culo, perché voi, io sicuro, facciamo, come dire, pescare la zanzara nel torbido . E quindi voi che siete abituati, appena vedete una cosa che sfiora il tema sessuale, certo. anche un signore che legge un libro, come ha fatto tante volte d'annunzio, sì. voi subito. Ma no, ma io lo sapevo. Invitiamo l'oca a bere, non la zanzara. Ma non dire cazzate, dai, sì, io lo sapevo perfettamente. Conoscendoti, sapevo perfettamente che era una presa per il culo. Vabbè, spiegami una cosa, ma hai visto Berlusconi che casino che ha combinato? A Roma. Però ha fatto male, però. Cioè, non ha fatto male scegliendo Martini? Non ha fatto male perché, ora lì è chiaro, io ho parlato ieri con Di Battista, tutto sì. è chiarissimo. Cioè? Il nemico principale sì. di Di Battista, più che di Berlusconi e degli altri, è Renzi. Allora, andando al ballottaggio, Sala e Parisi, sì. 5 Stelle voteranno Parisi, sì. ed è chiuso. Cioè, allora, detto Di andando Battista? Al ballottaggio, 5 Stelle e Gacciacchetti, sì. la destra voterà 5 Stelle. Per cui il problema della destra oggi è soltanto aspettare che capiti l'ineluttabile, cioè che il ballottaggio non sia né per Marchini né per quell'altra né per la, come si chiama, Meloni. La Meloni ma sia per 5 Stelle. Ma Di Battista ti ha detto che 5 Stelle a ballottaggio a Milano votano per Parisi, votano assolutamente per... assolutamente, ma dice che non c'è uno solo di loro che voterà vota per Parisi. Sala, che voterà per Sala. Beh, quello certo. No, l'ha detto, ma l'ha detto non come una cosa riservata, secondo me lo dice anche se lo interrogo. Senti una cosa, invece io sono sicuro che tu sei incazzato con Davigo, il signor Davigo. Sì, ho fatto un comunicato. Beh, Davigo, sai, indipendentemente dal falso che ha detto, sì. che comunque fa parte della sua natura, come dire, manichea, sì. lui è quello che ha usato quella parola che da solo lo squalifica. E lui ha detto: voglio rivoltare l'Italia come un calzino, sì. disse 25 sì, anni come fa. No, la parola calzino sì. è la misura della sua assenza di gusto, di dignità. Non puoi parlare dell'Italia. L'Italia non è un calzino, sì, non è sì. una cosa. Poi ma era un calzino modo non di è dire. Preservativo. Sì. Uno che pensa che l'Italia non va valorizzata per i suoi monumenti, per Mantegna, per Donatello, sì. per Padova, ma va rivoltata come un calzino, già da allora non mi piace. Poi, essendo di destra, è quella destra, diciamo, giustizialista, che è peggio della sinistra. Quindi... Insomma, spiegami un attimo, però gli italiani sono tutti con lui, perché lui dice che noi, tutti i politici, continuano a rubare a mani basse. Questo è il punto. Beh, probabilmente ha ragione, però ti dirò che ho fatto questa riflessione: la corruzione è schifosa e indigna tutti, ma la cosa peggiore dell'Italia è l'ignoranza spirituale, religiosa, cioè l'ignoranza totale. Certo. I ragazzi, invece di comprarsi un paio di pantaloni, prendono dei jeans da rotti. Qui si vede, quando uno compra un jeans rotto, capisce a che punto siamo arrivati. Cioè, rompi i jeans, tu, i jeans, coglione. I jeans, quelli, esatto. quelli tagliati, sì. dici. Quelli tagliati. Uno che, quello fa capire a che punto siamo. Cioè, secondo te, quando tu vedi uno, un ragazzo con un jeans tagliato, che pensi? Penso che siamo arrivati a quel punto lì, cioè che uno si fa straccione pagando dei jeans più che se fossero i teli, se non se li rompe lui sugli alberi suoi, se li sì. fa rompere per pagarli di più. Dove cazzo siamo arrivati? La gente va negli outlet e non va a vedere i musei. Vabbè, ciao Vittorio, ciao. Vabbè, ciao ragazzi, ciao, salutate, caro, mi ciao. Raccomando. Ragazzi, comunque abbiamo dato per scontato che tutti sapessero di questa foto, di questa foto di Sgarbi che circola. Foto di Sgarbi nudo in cui non si vede il pene. No, si capisce che è un fotomontaggio. Beh, no, però molti l'hanno presa sul serio. Cioè, circola su Twitter, su web, una foto di Sgarbi nudo con una citazione in latino. In realtà questa foto di Sgarbi nudo è un fake assoluto. Cioè, l'ha fatta lui, il suo assistente, ma è un fotomontaggio. Cioè, non è Sgarbi nudo. Siamo al top, ragazzi. Siamo al top. La Zanzara. Parenzo, non dare retta a questi pazzi, siamo tutti con te. Forza, Parenzo! Allora, Alessandro, se non sbaglio, da Berlino, vai. Sì, buonasera Cucciani. Ciao, dimmi. Volevo chiedere se posso insultare Parenzo. Ma tu puoi fare quello che vuoi qua. Sì, puoi pagamento, certo, si può fare. È un soggetto pericoloso. Molto, molto. Pericoloso, dai. Sta lì con due telefoni in mano. Uno, con uno è collegato con te e con l'altro ha il filo diretto con la magistratura. Cioè? È un delatore e un infame. Oh, un delatore, un infame. Ma questo, ma perché come si permette? Questo qua viene denunziato immediatamente. Ma pure un'altra volta. Dai, su, Davide. Beh, sì, se mi dice che se mi dice che io sono un delatore, certamente è come la pedofilia, è uguale, cioè un insulto. Ma no, ma delatore, che infame. Che non riguarda la politica, non è che dice non la penso come lei. Alessandro, sui Rom, perché hai detto penso infame, delatore? Perché? No, perché lui denuncia delle persone che personalmente non gli hanno fatto niente. Ma dipende, se uno mi offende oltre oltre la questione della differenza del pensiero sulle cose, è ovvio. Se sì, uno... Però stai un po' esagerando questa questione di querelare. Dice... No, lui... no, un momento, ma è tutt'altro. Vabbè, Alessandro, poi? Se lui fosse stato un tedesco nato 80 anni fa, gli ebrei uccisi sarebbero stati 6 milioni e 20 mila. No, non ho capito. 20 mila sul conto di Parenzo. Perché? Perché li avrebbe denunciati. Non ho capito, non ho capito pazzo, il collegamento. Non si capisce scusa niente di quello. Spiegami il collegamento, Alessandro. Non ho capito. Il collegamento è che gran parte degli ebrei portati nei campi di concentramento sono stati denunciati. Ah, tu dici ci furono le delazioni. Ci furono le delazioni, esatto. Ho capito. Cioè, secondo tu stai rimproverando a Parenzo che ogni volta che critica qualcuno, poi alla fine lo vuole anche denunciare. Esatto. Va bene, Alessandro, ho capito. Nicola da Mantova, dai. Buonasera Cucciani e dimmi, Parenzo. Dimmi Nicola, dimmi. Allora, volevo dirti che hai vinto la scommessa. Anche quale? L'hai persa. Quale? Quella su Bertolaso che avevi detto. Ah, perché avevo detto se Bertolaso arriva al ballottaggio mi faccio inchiappettare gratis invece, esatto, di 200.000. Ma era talmente evidente. Ragazzi, io bazzico di politica da quando ero ragazzino, per cui cioè, si capiva lontano un miglio che la candidatura di Bertolaso non arrivava da nessuna parte. Cioè, mi pare abbastanza evidente, Nicola. Ma non è questione di salvare il culo o non salvare il culo. È questione che ho scommesso facile questa volta. Ho detto mi sarei fatto inchiappettare gratis invece di incassare 200.000. Peraltro nessuno si è fatto avanti. Come io immaginavo, se Bertolaso arriva al ballottaggio, ma ballottaggio era impossibile, anche fosse rimasto candidato, non sarebbe andato al ballottaggio. Va bene, Fabrizio Prato. Ciao, dimmi, buonasera. Dimmi. No, niente, io mi ha stupito un po' il signore, quel ragazzo di prima, era rimasto senza lavoro. Ma di dov'è lui? Perché di io, Torino, di Torino. Problema, perché io sono di Prato, qua giù ci stavano due o tre autisti, se lui era in grado di poter fare. Alessandro, è ancora in linea? Sì! Alessandro, fai l'autista? No. Non fai l'autista. No, Fabrizio, tu che lavoro gli vuoi offrire? Non ho capito. No, io fa l'autista, fa il camionista. Cioè tu fai, che lavoro gli vuoi offrire da camionista, scusa? Certo, che li volevo offrire. Ho due ditte che mi stanno chiamando perché cercano degli autisti. Ho capito, ma lui non c'ha la patente. Lo so, io ho fatto la domanda e ho telefonato per sapere se questo signore era in grado o aveva la patente. Alessandro, hai la patente per fare l'autista? No, purtroppo. Neanche ma che sai fare? Scusa, spiega. Io so portare il carrello, perché l'ho portato per 10 anni. Quale carrello? Il muletto. Il muletto, sì, ho capito. Ma anche per guidare il muletto ci vuole la patente, anche nei osi. Patentino. Poi che c'ha? Poi che sai fare, Alessandro? So fare di tutto. Tipo, che sai fare? Ma so fare... Selezione in linea. Selezione in linea. Fare... Poi? Che sai fare? Riordino. Riordino di che? Riordino di tutti idee. Gli articoli. Riordino degli articoli. A seconda articoli? Di come mi arriva il comando. Ah, gli articoli, sì, sì. Ho capito. Praticamente sarebbe come magazziniere. Insomma, magazziniere, lo sai fare il magazziniere, Alessandro? Sì, sì. Magazziniere. Allora, fatevi avanti da Torino e provincia se cercate un magazziniere. Qui è lontano perché io... Vabbè, Fabrizio, infatti tu ti escludo in partenza. Ma io sarei disposto anche a trasferirmi. Sì, amico mio, però mi sa che devi rimetterti un po' in sesto fisicamente, perché con sta voce do cazzo vai, scusami se te lo dico. Quanta ne ha? Ancora questa voce, poveretto. Ma non lo so, mi sembra dimesso. Uno dimesso, sì. Che ne so. Ma sono depresso, non è che... Ho capito, però amico mio, non è facile. Se uno già è depresso, poi c'hai la... i reni, ho capito, ma non ricordarglielo sempre, poveretto. Ma che discorsi il cuore, sono? Eccetera. Poi cerchi pure lavoro, scusa. Quanta ne ha questo? Che ne so, 45, l'ha detto prima, ragazzi, siete distratti. Io sono entrato dopo. Fabrizio, fermo un attimo, Alessandro, sì. 45, no, se non sbaglio, giusto? Il 21 di maggio 45. Però, amico mio, ci vuole un po' più di forza in questi casi, bravo, perché se tu sei depresso così, è inutile pure che noi facciamo gli appelli, eccetera, non ti cerca nessuno, perché dice non è che possiamo pigliare uno che già... Sì, ma io non posso neanche stare senza luce... Da 8 anni, nessuno mi dà una mano. Amico mio, abbiamo fatto un appello adesso al comune. Dici un attimo, ripetici un attimo il nome del comune, che me lo so scordato. Qual è? Comune di Volpiano. Volpiano. Ho capito, sto anche dove. Aspetta un attimo, fermo un attimo. Alessandro. Sì. Non si butti giù, adesso proviamo a vedere col comune, dai. Volpiano, Volpiano. Qualcuno del comune di Volpiano ci chiami. Scusa, stasera dove vai a mangiare? No, stasera è la mia vicina di casa, mi passa un piatto. Come? Mi passa un piatto. La mia vicina di casa mi passa un piatto. Come l'ascolti la radio tu? Col telefonino? A pile. Beh, amico mio, ascolti la Zanzara ogni sera? Sempre. Beh, adesso cerchiamo di darti una mano, e più di questo che possiamo fare? Facciamo appelli, adesso ha chiamato uno da Prato, magari chiama qualcuno da Torino. E comunque, magazziniere, va bene? Ma tutto va bene, anche pulire i cessi, non mi interessa. Pulire i cessi, amico mio, sì, per pulire i cessi pure ci vuole, bisogna pulire, saper ripulire i cessi. Saprà fare, dai. Non è semplice pulire i cessi. Cioè... Arriva lui. No, però... La cosa che sai fare di più, cioè che ti... Non dico quello che ti piacerebbe fare, che in questo caso... Non serve. Ma che c'hai, figli, cose, che c'hai? No. Avevo un'ex donna che mi ha lasciato. T'ha lasciato, vabbè. Perché t'ha lasciato? Perché t'ha lasciato? Perché secondo lei d'altra parte avevo problemi. Avevi problemi. Ma la depressione a che punto è? Cioè, nel senso che c'è qualcuno che ti segue, vai ai servizi sociali, in ospedale? Sì. Che dicono? No, che le cose vanno meglio, che... Ma ti danno dei farmaci, ti danno qualcosa? Sì, sì. Che farmaci prendi? Adesso il nome. Prendo... Antidepressivi? No, più che antidepressivi prendo solo il Tavor per dormire. Tavor per dormire. E ai reni che c'hai? Ai reni c'ho i calcoli. Pure. E il cuore? Al cuore c'ho, non lo so, tachicardia, batticuore... Amico mio, io non me lo sento, però la dottoressa mi ha detto che ce l'ho. Passamela vicino un attimo, vai dalla vicina un secondo. Voglio parlare con la vicina un secondo. Puoi andare un attimo dalla vicina? Bussa un attimo alla porta della vicina, ti prego. Perché? Così ci voglio parlare un secondo, così mi metto. Ah, va bene. Vai un attimo lì, vai un attimo lì. Un attimo solo. Fabrizio, tu non puoi fare un cazzo per Alessandro. Sto pensando, ma con una depressione in questa maniera lì bisogna essere un po' più allegro e si dare a fare. Io vabbè, allegro adesso non è che c'è allegro o non allegro, uno, ma però no, non... allegro nella voce, non so, ma non nella voce, nella uno deve avere un po' di adrenalina, di carica, ho capito, altrimenti chi te lo dà da lavorare, scusa, ma se non mangia lì dice adrenalina, carica, sì, ma lasciamo perdere adesso il comune adesso vediamo se può fare qualcosa. Però Alessandro, ma io penso che a lui ci vuole qualcuno che l'aiuti da quelle parti lì, sinceramente. Aspetta. Io ho telefonato perché... Sì, fermo Fabrizio. Alessandro, dove sei? Pronto? Signora? Sono vicino ad Alessandro, cos'è successo? No, dice che non c'ha da mangiare, che senza luce, senza gas, confermiamo tutto, sì, è tutto così, disperata la situazione? Ah, sì, sì, sì, è vero, confermo. Lo aiuto io, è vero, l'aiuto confermo. Cioè, ogni sera viene a cena da lei? No, non viene a cena da me, però io le porto comunque il pranzo e le porto tutte le sere la cena. Ma come sta fisicamente? Come lo vede? Perché noi alla radio se non lo possiamo vedere. Com'è fisicamente? Abbattuto? No, non sta bene. Non sta bene, eh? Non assolutamente sta bene. No. Non sta bene. Lei come, lei vive da sola, con la famiglia? Come vive lei? No, no, no, io vivo con la mia famiglia. Io ho la mamma, 4 e 3 figli. Io caspita, ho la mia che famiglia. Che beh, cercate, però... cercate di dargli una mano finché è possibile. No? Ma il comune, perché non fa niente il comune? Ma il comune non fa niente perché purtroppo dicono che non ci sono i fondi. Ecco, vedi, questo è il punto. Questo Volpiano è il problema. Volpiano, Volpiano, sì. Volpiano. Solo che poi non ci sono i soldi per aiutare queste persone, però poi i soldi vengono spesi tra virgolette male. Beh, questo non c'è dubbio. In altre cose. Non c'è dubbio, non c'è dubbio su questo. Volpiano, cosa vabbè. Ti prepara stasera da mangiare? Io volevo una conferma della situazione. Io cosa prepara? Per... Vuoi sapere cosa preparo? Sì, sì. Allora preparo la pasta con allora panna, cos'è che sono quelli? Scusa, panna, panna asparagi, zafferano e pancetta. Oh, brava. Poi? Beh, oh, brava. Vabbè, panna, asparagi e pancetta, benissimo. Poi qualcos'altro, secondo? Sì, sì, poi ho fatto la torta salata. Sì. E poi ho fatto l'insalata. Beh, insomma, la torta salata, la cosiddetta torta pasqualina, quella ricotta e spinaci, bravissima, immagino. Ricotta, spinaci, uovo. Faccio sempre anch'io quella lì, ottima. Vabbè, ma sti cazzi adesso quello che fai tu, scusami. Beh, no, scusami, ho capito. Stare in mezzo alla strada. Cosa fa... No, Alessandro, la signora no. Però... Stai calmo, la signora sta facendo adesso, la a torta casa tua, pasqualina. Ricca casa di Prati, borghese di Prati, ricca, milionari, eccetera, di fronte a questo... Ma non dire stupidaggini. Signora, mia, scusi un attimo, ho perso un attimo la testa. Dovessi dire le vere, il castello dove vivi tu in Umbria. Ma perché devi rompere? Ma qua io ho tutto, scusi, guadagnato, signora, perché ho fatto. Signora, mi dica, scusi. Allora, la pasta, torta pasqualina. Diamo una bella porzione sia di pasta che di torta salata e anche, che ne so, c'è pure il dolce? No, vabbè, il dolce stasera no, però c'è il gelato. Il gelato, no, vabbè. A che gusto il gelato? Alessandro, mi raccomando, mi ripassi un attimo Alessandro, un secondo. Va bene, vale. Glielo passo subito. Grazie, buonasera. grazie. Niente, grazie a voi, buonasera. Grazie. Monica si chiama, Monica. Pronto? Monica. Alessandro, mi raccomando, qui adesso controlliamo la situazione, monitoriamo la situazione, eh? Cioè, adesso abbiamo fatto appelli e cose del genere, non ti abbattere, ti abbraccio fortissimo, mi raccomando. Però un po' su, perché altrimenti se tu mi dici, se tu al telefono mi dici c'ho questo, c'ho quest'altro, giustamente hai detto la verità, c'ho questo, quest'altro, sono depresso, e qui e là, qui non ci chiama nessuno per farti fare anche solo il magazziniere. Cioè, basterebbe un piccolo sforzo da parte di qualcuno che ci chiama e ci dice, voglio far fare, mettiamo in prova sto ragazzo, Alessandro, ragazzo, c'ha 45 anni comunque, che vuole fare qualcosa, magazziniere, giardiniere, come dici tu, pulire i cessi, eccetera, e almeno lo facciamo campare meglio, o sbaglio? Certo. Vabbè. Certo. Vabbè, amico mio, ci abbiamo il telefono, ci abbiamo tutto, ci sentiamo presto, eh. Ciao. Grazie. Ciao. Salute. La Zanzara, sono le nostre 2 ore e mezzo di libertà quotidiane. La Zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800 24 0024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Vai con Tipi da Zanzara. Tipi da Zanzara. Carlo, sempre Milano, vai. Io volevo parlare della massoneria. La massoneria. No, questo è importante. Che volevi dire sulla massoneria alle 19:22 di oggi? Cosa allora, volevi dire? Allora richiamo domani. No, dimmi Carlo, dimmi ancora perché, domani, dimmi, perché che cambia. Voi parlate tanto di sesso e di altre stronzate. Comunque la massoneria, se non la massoneria, sì. È dilaga. Dilaga? dilaga in Italia giorno per giorno. I dirigenti finanziari, i gruppi di banche, quelle che comandano in sostanza l'Italia, le grandi lobby, chiaro, che possiamo contare sulle dita di due mani, non di più, dettano al nostro presidente del Consiglio, che è un affiliato dettano quello che lui deve fare. Lui, questo stronzo incapace sì, obbedisce alle direttive della massoneria. Quale massoneria? È una sola. È una sola. Che domande fai, mamma mia. È quella che condiziona quale il 90% della popolazione italiana. Cioè? Cosa vuol dire? Quale massoneria? Quale? Quale loggia? La massoneria è una sola! Quale loggia? Allora, il tuo presidente il tuo presidente del Consiglio. Però quale massoneria? Come si chiama? Fa venire in mente come si chiama sta massoneria, Carlo? Un burattino. Ma un burattino, come si chiamerà un nome sta massoneria, no? Senti, ma tu sei un ignorante o cosa sei? Massoneria. Sì, ma ci avrà un nome, massoneria bubù. Non dico vecchia come il mondo, ma quasi. Sì, ma come si chiama? Come si chiama? La loggia, come si chiama la loggia? No, ma chi parla di loggia? Che l'abbiano suddivise in logge? Logge più o meno importanti, sì, o più o meno evidenti, è un discorso, ma la massoneria così in generale è una cosa unica, sola, sempre. Sì, ma chi sarebbe il capo? Chi sarebbe il capo? Il capo della massoneria. Ma voi fate di quelle domande proprio da cassone. Scusi. Fate delle domande, chi è il capo della massoneria? Chi è il capo di questa massoneria? Chi è il capo? Ma vaffanculo, va. Tipi da Zanzara. Agli stronzi sgonfiate le gomme. No reato, no pena. Traffic. La Zanzara. A Cruciani dico: togli Parenzo, chiama me, vedrai che faremo più audience. E poi rispetto a Parenzo, io sono uno scienziato e lui un microbo. Allora andiamo a Torino da Veronica, vai. Sì. Dimmi. Sì, salve, sono Veronica. Io volevo semplicemente dire a quel ragazzo che si chiama Alessandro, sì, che prima di cercare un lavoro forse dovrebbe fare un percorso di comunità, disintossicarsi, perché mi sembra palese. Ma che ne sai, scusa? Tu dici ma come che ne so? Beh, amica mia, l'impressione era quella, gli ho chiesto se aveva bevuto, cioè... No, magari. Il problema è che tu non hai avuto il coraggio di dirglielo. Ma l'hai no, ma l'hai soltanto un po' così, cioè girovagato un po' intorno sulla cosa, ma con questa voce, ma cosa prendi? Ma prendi il tavolo, eccetera, eccetera. Però l'ha detto lui, prende il tavolo, non ho detto io. Sì, vabbè, però gliel'hai... Ma ho capito, ma che cosa dovevo dirgli se faceva d'eroina? Che cosa dovevo dirgli? Non ho capito. Cioè, no. O si no, faceva di qualcos'altro, mi avrebbe detto di no, quello, no, è chiaro. Quello è un fatto suo se si fa di una cosa piuttosto di un'altra. Ma allora perché dici che si deve disintossicare? Non sai nemmeno te se questo qua si fa o no, certo, o se si fa di droga, scusa. Però si sente dalla voce. La voce dall'inizio l'ho detto che era una voce alterata, d'accordo, ma come facciamo a sapere se questo qua si fa o non si fa? Ma si sa, a parte che io sono un sanitario, quindi queste persone le annuso da lontano, non ho grandi, purtroppo le conosco, e la voce è proprio chiara di uno che si scioppa, insomma, senza cioè che problemi. Vuol dire, che cosa fa? Si fa, no? Cioè ero? Sì, io penso di sì. Ma la voce è proprio sa, quella impattatissima di uno che si fa queste cose. Ma Veronica dice la sua, però non lo possiamo sapere. Cioè, Veronica, ci io vuoi parlare? Dico la mia, poi per carità. Ci vuoi parlare? Ci vuoi parlare? Ma va bene, ci parlo pure. Aspetta, adesso lo richiamiamo, ferma lì. Andrea da Massa, vai Andrea. Ciao, avevo chiamato per parlare della questione degli immigrati, ne stavate parlando prima. Sì. Però prima volevo dire due cose, volevo dire sulle chiamate che sono state prima. Una, rispondo io per il signore di prima, che la loggia si chiama P2. E diciamo che se uno guarda i programmi degli ultimi 20 anni e legge il piano di rinascita democratica, e che cosa? Sono abbastanza uguali. Questa è una delle più grandi puttanate degli ultimi anni. Cioè, voglio il fatto che ci sia qualcuno che ha portato avanti in questi anni i programmi della loggia P2. Una cazzata pazzesca. Lo so, purtroppo è difficile. Cioè, no, ma non è difficile, è semplicemente una puttanata. Dai, su, non diciamo stronzate. Io agisco come se non fosse così, però. Ma se uno dice che bisogna, che ne so, rafforzare il potere esecutivo, no, in Italia, sì, lo diceva magari pure Gelli, lo diceva Berlusconi, lo dicevano tante altre persone, ma che vuol dire che è lo stesso programma della P2? Ma che cazzo c'entra? Ma fino a prima potevo avere qualche dubbio, potevo avere su Berlusconi, diciamo che. Però, visto che adesso c'è la Renzi e sta facendo le stesse cose di Berlusconi, e io ero del PD, Alcune cose che voleva fare Berlusconi, che ne so, sul lavoro, può darsi pure che adesso le fa Renzi. Ma no, piano di rinascita democratica le sta facendo. Ma quale piano di rinascita democratica? Vabbè, comunque, a parte questo, volevo darti ragione. Ah, un'altra cosa, un po' di tempo fa sulle cicche, che so che te le tieni in tasca, ci sono e mangio a fumo. Le cicche mi tengo in tasca, ma che cazzo dici? Sì, che dicevi che non le buttavi per terra. No, ma ho detto sempre, ma non hai capito nulla. Io fumo il sigaro ogni tanto. Fumo, ci sono, le prendo e le metto lì dentro. Sì, è vero, hai ragione, potrei comprare quelle cose lì, solo che non voglio altre cose ingombranti addosso e dunque non semplicemente le appoggio ogni tanto fuori dai ristoranti dove vado quel mezzo sigaro che fumo al giorno. Ma magari non ci ripensavo, ho detto, vabbè, glielo dico. Va bene, per il resto dire, niente, Giuseppe, provincia di Chieti, vai Giuseppe. Cruciani, oddio, buonasera. Ecco armato, fermo là. Cominciamo bene. Aspetta, fermo là. Alessandro? Oddio, non ce la posso fare alle 20:25 del venerdì. Alessandro? C'è Alessandro o no? Alessandro? Pronto. Sì, scusami Alessandro, scusami. C'è Veronica che ti chiama dalla tua città, da Torino, che ti dovrebbe dire una cosa. Veronica? Sì, ci sono. Digli quello che... Sì, dice. Alessandro, ciao. Scusa se mi permetto, però mi sembra molto chiaro che tu hai dei problemi, a parte economici, ma hai anche dei problemi di salute, no? Ma questo perché... l'ha detto prima, poi? E poi io ti consiglio di fornirti di un CERT, che sicuramente dal Pignano c'è, che funzionano benissimo. Affermare. Cioè ti sta dicendo, praticamente Veronica, ti sta dicendo che tu sei praticamente un tossico, fai uso di droghe. Che cosa rispondi? Sì, non c'è niente di strano, se fosse così. No, però... No, ma perché è una patologia da trattata. Alessandro, rispondi a Veronica. Ma ti posso fermare e dirti due parole? Dimmi, Alessandro. Sì. Allora, io fino al 2006... ero tossico dipendente. È mancata mia madre nel 2007. Sì. E io ho trovato un amore. Sì, ma tu non ho capito, fino al 2006 eri tossico dipendente di cosa? Di eroina. Eroina. Poi tutte e due, eroina, cocaina, tutto, anche. Qualsiasi cosa. Vabbè. Poi vediamo tutto. Poi nel 2007 hai trovato l'amore. Vabbè, hai smesso con l'eroina. Ho trovato l'amore. Da lì ho mollato. E adesso? Non tocco niente. Cioè tu dal 2006 potete fare l'esame del capello. Ma no, ma guarda che non è mica un reato, in teoria, essere drogati. No, lo so. Spacciare è un reato, ma essere drogati non è un reato. Però pensavo che non era necessario dirlo. No, ma io infatti ti ho chiesto, ma che hai problemi di altro tipo, eccetera, alcol, eccetera, eccetera. Tu mi hai detto di no, io più o meno ci credo. Poi dopodiché non è che ti faccio l'interrogatorio sul fatto che sei tossicodipendente o no. Veronica ci ha chiamato e ha detto, secondo noi dovrebbe prima disintossicarsi. Veronica, ci credi o no a quello che ma dice Alessandro? Ma cosa? Ma io ci posso credere come non credere, non è importante. Cioè tu hai detto che si sente, tu hai detto si sente che è fatto. Eh sì, con questa voce così si sente fatto. No, credimi. No. Magari abuserai di qualcos'altro, perché tutto de fuori non guarda, è che stai dalla storia. Guarda, io ti dico la terapia che prendo. Prendo, va bene. Il Normix, Tavor, poi. Pantro, magari il Tavor. Benerva. Ma tutto questo perché cosa? Per la pressione. Per la pressione e la depressione, non pigli cose per... No, per la pressione. Cioè, allora, diciamo la verità. Allora, Alessandro, tu non ti fai più, giusto? Da 10 anni. Non ti fai più. Marijuana ne fumi? No. Marijuana niente, mai. Cocaina nemmeno? No. Niente, non tocchi più droga. Veronica, arrivederci. Ciao Alessandro. Ciao, ma ciao, lo giuro ciao. Su mia mamma. Ciao, saluti, ciao, no, ciao, ciao. Allora, Giuseppe, vai. Cruciani, ma lei deve sempre insultare appena uno. Ma che ho fatto? Ho detto armato. Allora io dico che lei è un coglione, va bene? Va bene, d'accordo, tanto non me ne frega uno niente. Uno, va dimmi. Bene. Però lei stasera ha fatto la figura del tirchio. Perché non ha detto io prendo il 10% della cesata e lo do al signore? Ma non ci penso nemmeno lontanamente. Ma perché non ci penso nemmeno lontanamente? È perché è un tirchio, no? Ma no, ma non è tirchio. Ma che c'entra tirchio? Ma che vuol dire? Cioè, è un tirchio. Ma non è questione di tirchiaggine, è questione ma che non la fa. Ma a fare le domande, ma cosa prende il comune, l'altro maiale che c'ha a fianco là, il comune, vedo i clandestini stanno ai ristoranti a 5 stelle e quello là muore di fame, ma cosa prende? No, lei che è esperto di canne, no, gli faccio una canna che si rimette solo, c'ha una voce, ma che cazzo sta a Giuseppe? Pronto? Sì, pronto. Ha una durata, hai una finito? Soglia di attenzione limitata. No, ho finito. Hai finito con ste cazzate? No, no, ma non si sente niente oggi. Aiuto, aiuto! Il mio papà ascolta sempre la Zanzara, è pazzito! Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la Zanzara. Ragazzi, a Roma ancora non è finita, la partita è ancora aperta. Stiamo parlando naturalmente delle elezioni comunali. Ed è ancora in corsa, caro Parenzo, il cavalier Mario Auriemma. No. Cavaliere! Eccoci qua, sono qua, presente, eccolo qua. Come andiamo? Come andiamo? Bene, bene, bene, bene. Mi mancava a Zanzara stasera. Italia morale, com'è il suo parere? Italia morale. Ho capito, Italia morale una volta. Vabbè. Si dice, no, tre volte. Italia morale, ma lei è ancora in corsa, cavaliere? Ancora in corsa, mi hanno costretto, mi ritirà. Ma chi? Chi t'ha costretto? È stato costretto a ritirarmi, minaccio. Ma chi t'ha minacciato, cavaliere? Che dici? I proci, i Pomezia, i proci, non sappiamo a Roma. Ma come i froci, scusa? T'hanno attaccato, dopo quello che hai detto qua la Zanzara. T'hanno attaccato, ho fatto bene, mi minaccio, la minaccia di morte, non me ne frega un cazzo, non me ne frega niente. Vabbè, trovo difficile che... Ma t'hanno minacciato, ma che t'hanno detto, cavaliere? Mi hanno detto facciamo sparire da Roma, lei adesso fuori da Roma, facciamo sparire. Ti aspetto sotto casa, ho detto, capistolo, cormito, con tutto. Ma perché tu c'hai le armi pure? No, le armi vai, io ne uso armi, uso solo le braccia, fisicamente. E fisicamente, vabbè, ma questi qua sono una lobby, no? Una lobby questi qua. È una mafia. Comunque, non ti ritiri, nonostante le minacce dei gay, non ti ritiri. Non me ne ritiro, continua a fare la lotta. Ho capito, la lotta. Scusi, cavaliere, ma adesso tu sei ancora candidato ufficialmente come sindaco di Roma, giusto? Fino a oggi sì, fino a domani non lo so, stasera sono sicuro il 100% sono ancora candidato. Con Italia Morale. Italia morale. Sì, scusi un attimo, ma alla fine sto Marchini dice che ti volevi alleare con Marchini, alla fine Marchini si è alleato con Berlusconi. E Berlusconi è andato con Marchini, ma bisognava dei numeri che fanno questi numeri, Che numeri fanno? E io adesso voglio fare accordo con Berlusconi, mi metti i miei candidati da Berlusconi, io non posso, mi fanno entrare. Ah, questo è interessante, questa cosa qua. Vuoi fare l'accordo con Berlusconi? Ma dai. Con Berlusconi. Vabbè, Berlusconi, grand'uomo, sì, ma Berlusconi pure lui ha dei problemi, pure Berlusconi. Sicuro che si accolla con lui. Dei problemi, ha superato Berlusconi i problemi. L'ha superati, non troppo, ancora fuori dal Parlamento. Vabbè, ma lui c'ha i soldi, c'è un miliardario, presidente Armini, presidente di tutto. Lei. Comunque, cavaliere, la situazione non ho capito. È Italia morale, il cavaliere. Mario Auriemma voleva diventare sindaco, adesso forse cercherà l'alleanza con Berlusconi e con Marchini. Berlusconi, con tutti i problemi che c'ha, si carica sto Auriemma, simpaticismo, ma figura. Italia morale. Scusami, cavaliere, ma se Roma dovesse essere governata dalla sinistra, che succederebbe a Roma? La sinistra non può vincere mai alla sinistra, la sinistra non vincerà mai, perché tutti i candidati della sinistra sono candidato con Marchini. Ma che c'è? 5 Stelle sono i problemi. 5 Stelle sono i pupazzi. Stanno a Camera dei Deputati. Ma perché i pupazzi? Ma è tutto sbagliato. Le declinazioni non conta niente. I 5 Stelle, tutta robaccia. Scusami, cavaliere, ma possiamo fare qualcosa per finalmente per togliere le mignotte dalle strade o no? E facciamo tutto. Una legge. Comandiamo al comune, le leggi il comune. Le strade vanno via. E che faccia tutta la strada? Ma non fa via. Le leggi il comune. E la cambi deputata, cambi deputata, facciamo un referendum, cambi deputata. Referendum, la cambi deputata. Ma scusami, non ho capito, cavaliere, come si fa a togliere le mignotte dalle strade? Fai una legge speciale, oppure al comune fa la circolare. Anni a casa loro, poi non fai mignotte, un anno fa passato. E le case chiuse le vogliamo rimettere a posto o no? Le vogliamo rimettere. Poi mettiamo chiuse, mettiamo a casa loro. Io sono case chiuse, ne sai mignotte, viene da me. Importante che siano a casa, dici, no? Importante che siano a casa, bravo, importante che sia la casa, bravo. Ma tu ci sei. Una volta ci andavi a mignotte o no? Sempre sono andato a mignotte, quando ero giovane andavo sempre a mignotte. Figurati. Adesso? Adesso basta, finito adesso, siamo in campagna elettorale. Beh, adesso perché? Me fai voto, Italia Morale, Italia Morale. Beh, no, ripete in continuazione. Che c'entra? Che collegamento c'è tra le mignotte e Italia Morale? Cioè adesso tu non vai più a donna, non scopi più. Italia Morale c'è di tutti, Italia Morale, ricordatelo. Sì, quello lo so che c'è di tutti. C'è di tutto, tutto. C'è di tutto. Ma scusate, ma tu, scusami Raffaele. Io sono il fondatore, sì, sono il fondatore di Italia Morale. Sì, ma questo lo sappiamo. Scusami, cavaliere, scusa un attimo, ma che cavaliere, dai. Oggi tu come fai a scopare alla tua età? Ma che cosa faccio ancora? Ma col Viagra che fai? No, Viagra niente, senza Agra, normale. No, Viagra, no, senza Agra. Agra. Viagra. Normale, normale. Normale, senza niente. Senza niente. E ce la fai ancora o no? Oh, ma no, faccio due al giorno, la faccio io. Sì, due al giorno dove? Ma quale due al giorno? Vabbè, due al giorno se fanno sempre. Ma che due al giorno con chi le fai due al giorno? Due seghe al giorno ti fai, dai. No, no, qua seghe, seghe non se le fanno più ormai. O le donne o niente. O le donne o niente. O niente. Allora, vabbè, vogliamo ricapitolare, caro cavaliere, il programma per Roma di Italia Morale, così lo sottopone Italia a meno. Italia Morale, tutti i tassi accesi di Roma. Gli tutti? Autobus in periferia. Sì, poi? I tassi accesi di Roma in periferia. Gli autobus, va solo i tassisti a camminare al centro di Roma. Al centro solo i tassisti. Che poi, di progetto. Poi i locali per i gay che devono fare? Via da Roma. Tutti a Pomezia, tutti a Pomezia. Tutti a Pomezia. Poi? E poi va, i Rom, i campi Rom. I campi Rom, mi mettiamo in campagna, mi sei pecora. I Rom in mezzo alle pecore in campagna. In mezzo alle pecore, li mettiamo i Rom, li mettiamo. A faccia i pecora. Le buche, come facciamo le buche per strada? Le buche è un problema grosso a Roma. Le buche ormai sono rotte strade, che fai? Ormai c'è pure sto commissario che non sta facendo un cazzo, sto commissario di Roma. Signor non Tronca. Sta facendo un cazzo. Ma sta facendo adesso io immagino il Tronca con tutta l'esperienza, Tronca, cosa che sente Auriemma. A Milano, esperienza. Io ricordo, ho fatto il presidente di squadra di calcio per 40 anni. Sì, sì, ormai certo. Conosco tutto, conosci ormai le strade, le vie, tutto. Sì, ho capito. E poi che vogliamo fare per altri problemi di Roma importanti? Mi dispiace per lui. Altri problemi di Roma importanti, quali sono? Per esempio, ci sono i 5 stelle che cominciano a tutti i costa. Questa ragazza come sindaco di Roma. Sì. Ma questa già stava all'AMA con Panzarone in commissione. Ma chi? Panzarone? La Raggi. La Raggi, ma tu perché sei Giacchetti, cavaliere? Perché sei Giacchetti? Perché sei cavaliere? Io sono cavaliere del lavoro, il cavaliere nazionale. Ma perché? Ma sono tutti cavalieri in Italia, sono tutti cavalieri. Ma no, io sono cavaliere particolare, io ho fatto l'industriale. Oh. Ah, particolare. Io ho fatto l'industriale, certo, io ho fatto l'industriale. Guarda come siamo ridotti. Industriale. Ma si è ridotto male, Come siamo ridotti male. Cavaliere. Dimmi, caro. Beh, io ti adoro, lo sai, cavaliere. Io vorrei che ma tu chiamo, ti. Ma chiamano spesso. Tanto c'è da fare. Non mi chiamo domani, lunedì ti do notizie clamorose. Che notizie c'è clamorose? Ma è notizia che ti do domani oppure lunedì. Ma veramente, notizie clamorose su che cosa? Su tutto, sulla politica. Sulla politica. C'è una notizia clamorosa. Siamo sicuri. Clamorosa, basta anche una M, sai, clamorosa. Ci sono le notizie importanti che sono sulla politica. Sì. Notizie importantissime, fondamentali. Chiama, ma vedi che do notizie, do ogni cosa. Beh, sento tutto il mondo, si sente, sono notizie importanti. Tutto il mondo. Ma senti un attimo, ma con Berlusconi ogni tanto ci parli tu? Sì. Io ogni tanto ci parla. Figura. Quando ci hai parlato l'ultima volta con Berlusconi? L'altro ieri. E sei a posto, vabbè, ciao cavaliere. Ciao, grazie. Ciao, Italia Morale, Italia Morale. Italia Morale, ciao. Ciao. Allora, volete sapere che succede quando. Fermi, c'è ancora tempo. Volete sapere che succede quando un omosessuale tenta di rimorchiare una persona per telefono. Noi abbiamo fatto questo esperimento prima delle Iene. È una cosa un po' diversa, ma è più o meno lo stesso risultato. Cioè, un omosessuale chiama una persona e dice: io sono innamorato di te, ti voglio conoscere. La reazione è questa. Pronto? Andrea? Sì? Sì, sei tu Andrea. Ah, che bello sentirti. Senti, io mi chiamo Lucio. Come? Io sono Lucio, Andrea. Diciamo che tu non mi conosci, io in realtà conosco te. E finalmente riesco a parlarti. Ma Lucio chi? È Lucio. Lucio. Ti dico soltanto il nome per il momento, poi magari ci vediamo. Mi piaci tanto. Io sono pazzo di te. Ma vedi che ti rombo il collo, Frocio. Andrea, non devi trattarmi così. Ma vedi che ti rombo le corna. Ma perché mi dici così? Magari vediamoci. Stai rompino le cuglione. Io sento i brividi quando ti vedo. Sindica, ma cerca tosuro. Vorrei conoscerti. Ma cerca tosuro. Oppure a qualcuno che ti rombo il collo mio. Ma possiamo vederci, Andrea? Dammi questa possibilità. Decidi che ti vieni a cercare. Decidi tu dove e come. Quando ti togli una ciumata del cervello, non so. Ma perché mi tratti così male? Ma fatela feccare in gola, io pizzo di frocioso. Ma perché mi dici queste brutte cose? Io mi sto comportando bene, io sono pazzo di te. Mi piaci da morire. Ti rompe le corna. Ah, come sei violento. Chissà come sei a letto. Ma non te l'ha rotto le corna. Ma la vita, sai, è piena di sorprese. Magari scoprirai un universo a te sconosciuto. Andrea, dammi questa possibilità. Vedrai che poi ti piace. Andrea, ma mi senti? Vaffanculo. E beh, non sarebbe male. Vediamoci, dai. Vaffanculo. Però è curioso, Davide, che avrei risposto, però io non avrei risposto così, però insomma è ma capibile. Non ho capito, perché se ti chiama una donna invece è il contrario, magari che è incredibile. Ma no, se ti chiama una donna, quello là avrebbe fatto una... strano che uno mi chiamasse che senza che lo conoscesse, dai, e mi dicesse ma ho capito, ma lui farebbe... stava facendo avanti dicendo: io ti guardo, uno vuol dire: no, guarda, non mi interessa di vederci, grazie, vado a rumbolo in siciliano, dai, su. La gente è veramente di una no, quando sente qualcuno che ha una voce omosessuale si scatenano i peggiori istinti. Daniele, Genova, vai. Daniele. Dimmi, che stai facendo? Stai correndo. Vabbè, buono. No, volevo fare un intervento sulla massoneria. Cioè, voi quando parlate con quelli che sostengono queste tesi. Ma dove stai correndo? A Genova, sul lungomare? Dove stai correndo? Sì, lungomare, fantastico. Vabbè, allora. Fate l'errore fondamentale di non capire che loro pensano che voi fate parte della massoneria. Ma fermati, però. No, prosegui. Non ho capito. Allora, prendete due d'ossigeno, magari qualche cazzata da dire, però. Chi chiama sostenendo la tesi della massoneria pensa che voi fate parte della massoneria. Ma noi pensano che facciamo parte anche della Spectre, della lobby della Confindustria contro. Di fondo. Ma questa gente non capisce che questo paese è rimasto fermo per decenni sul parlare della massoneria e dei poteri forti. E che fin quando non cominciamo a fare qualcosa, non capiamo dove sbagliamo. Quindi cominciamo a fare qualcosa. Poi capiamo dove minchia sbagliamo e lo correggiamo. Sì, però Daniele, questo è un discorso molto generico, detto anche con una certa fatica perché stai correndo, ma dobbiamo svegliarci, fare le cose, non vuol dire un cazzo. Carlo da Cuneo. Ciao Daniele, ti abbraccio. Carlo Cuneo, vai. Pronto? Dimmi. Conosco bene Alessandro perché 2 anni fa ho fatto un anno di comunità con lui. No, Alessandro quale? Quello di Torino che ha chiamato prima? Di Volpiano. Di Volpiano. Lo conosci perché hai fatto comunità pure. Di che tipo? Di recupero? Di recupero, sono un ex tossico, sono un tossico alcolista, mettiamola così, dai. Ma non ho capito, tu sei un ex tossico alcolista, no, hai la voce un po' più squillante rispetto a quella di Alessandro. Preferisco dire che sono un tossico alcolista finché non ne sarò fuori, ne saranno passati anni prima che non mi venga la tentazione di toccare qualcosa. Per cui ci stai dicendo in sostanza che in realtà anche Alessandro non è vero che da 10 anni non si fa niente. No, è anni che entra e esce e che i servizi sociali di Torino e di Volpiano si occupano di lui. Basterebbe chiedergli dov'era quando è morto suo padre e quando è morta sua madre. Lo so Carlo, purtroppo io avevo il sospetto che fosse così. Solo questo. siccome noi tossici siamo abbastanza inclini all'essere schifosi, a dimenticarci quando ci fa comodo delle persone che soffrono e che massacriamo, era giusto che qualcuno sapesse che questa persona non è proprio onesta. Cioè non è onesta perché? Perché ci ha raccontato delle balle? Assolutamente sì. Perché onesta entrato, in che senso? Perché è entrato e uscito, dalle comunità e continua a farsi a bere, Quindi, siccome sono un tossico e un alcolista, conosco bene lo stato di questa persona. Ma tu a che punto sei invece? Io, guarda, sono uscito dopo 3 anni di comunità, sì. Sto vivendo, per dirti, grazie alla cortesia e alla carità di una persona molto buona, in un centro recupero animali selvatici. In un container rimesso a posto da mio cognato, perché sono sobrio e astinente. Storia pazzesca. Ma vivo sulla, e l'eroina? L'eroina è la cosa più buona del mondo. In che senso? Ma no, non si deve dire così. No, ma certo che non si deve dire, fa schifo. Però lui ci sta dicendo, ci sta descrivendo che, qual è la sensazione che ha chi si fa di eroina. No, è evidente, no? Qualunque eroinomane serio e non i tossici di adesso ti direbbe che se potesse farsi di eroina. Te lo dico perché persino i miei operatori me lo dicevano. Cioè? Se potesse farsi di eroina senza conseguenze lo farebbe all'istante. Purtroppo è così, purtroppo è così. Io non lo so, ma mi raccontano queste cose qua. Purtroppo è vero. Cioè, io te lo garantisco, potessi sarei il primo a partire. Beh, ho capito, però, ho rovinato la mia famiglia, ho rovinato me stesso. Io sono laureato. Per l'eroina. Per l'eroina. Aziende. Mamma ero sposato con una donna spettacolare che più avanti voleva portare a Roma perché era bellissima, eppure per l'eroina butta tutto nel cesso. Mamma. E ancora continui? No, per fortuna no. Da tre anni? No. Hai perso tutto. Non è che adesso, da 5 anni non ti fai più di eroina? Sono in cura grazie al CERT. Però caro, non è che adesso ci chiama qualcuno che ci dice non è vero, anche lui si fa anche... dispostissimo, guarda, dispostissimo. No, vabbè, ma che me ne frega, mica siamo i controllori qua, non è che facciamo No, è perché ho la coscienza a posto, vedi, la differenza è questa. Che può chiamare chiunque. Va bene, anche Carlo. Poi ti do pure il nome dei miei pusher che ho ancora. Per carità. Questo è un'altra cosa un po' più interessante invece. Potrebbe esserci utile. Perché hanno anche dell'ottima cocaina e altre cose. No, quindi manca soltanto lo spaccio interessa, in diretta, mio, guarda, spaccio solo in diretta, no, noi non ci facciamo manca di nulla solo quello. Non ci facciamo di nulla, per cui non ci interessa questa roba qui. Detto questo, ti abbraccio fortissimo, grazie di questa telefonata, puntata stasera incredibile, dove è successo veramente di tutto come al solito. Questa è la Zanzara, non ci rompete i coglioni, andatevene a fare in culo e passate un buon weekend. Ciao. Io vi saluto, vi mando a fare in culo e finisce la storia. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.